Eppure quante cose ancora non ti ho detto. Non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie. Non abbiamo camminato insieme nei prati, abbiamo avuto fretta di conoscerci a fondo, ed ora che è finita siamo due sconosciuti, e tu non ami di me che un'immagine astratta, io non ho amato in te che una donna irreale. Dovremmo assomigliare a questi nostri sogni, e invece siamo noi sconosciuti a lasciarci. Somigliare a questi nostri sogni.